Allora Giovanni salì da Gezer e riferì a Simone suo padre quanto Cendebeo stava compiendo. Simone perciò chiamò i suoi due figli più anziani, Giuda e Giovanni, e disse loro: «Io, i miei fratelli e la casa di mio padre abbiamo combattuto le guerre di Israele dalla giovinezza fino al giorno d'oggi, e ci riuscì di liberare Israele più volte con le nostre mani. Ora io sono vecchio, mentre voi, per divina misericordia, avete abbastanza anni. Prendete il mio posto e quello del mio fratello e uscite a combattere per la nostra nazione. L'aiuto del cielo sia con voi». Poi scelse nella regione 20.000 combattenti e cavalieri, e questi si misero in marcia contro Cendebeo. Passarono la notte a Modin, e la mattina levatisi avanzarono verso la pianura. Ma ecco dinanzi a loro un grande esercito di fanti e cavalieri. Tra essi e gli altri vi era solo un torrente. Giovanni con la sua gente prese posizione davanti a loro. Poi, vedendo che la sua gente aveva paura di attraversare il torrente, lo attraversò egli stesso per primo. Gli altri, vedendolo, lo attraversarono anch'essi appresso a lui. Divise poi la sua gente e pose i cavalieri in mezzo ai fanti. La cavalleria degli avversari era infatti molto numerosa. Allora suonarono le trombe, e Cendebeo fu travolto insieme alla sua armata. Molti di essi caddero feriti, i superstiti fuggirono verso la fortezza. In quell'occasione anche Giuda, fratello di Giovanni, rimase ferito, ma Giovanni li inseguì fino a che raggiunse Cedron, che Cendebeo aveva ricostruito. Altri fuggirono fino alle torri che sono nei campi di Asdod, ma egli vi appiccò il fuoco, e così caddero di quelli circa 2.000 uomini. Giovanni poi, in pace, fece ritorno nella Giudea. Tolomeo, figlio di Abubo, era stato costituito stratega della pianura di Gerico. Egli aveva molto argento e oro. Era infatti genero del sommo sacerdote. Il suo cuore però si insuperbì e, volendo diventare padrone della regione, andava facendo subdoli progetti contro Simone e i suoi figli per eliminarli. Ora Simone, mentre stava visitando le città della regione, interessandosi delle loro necessità, scese a Gerico lui e i suoi figli Mattatia e Giuda, l'anno 177, nell'undicesimo mese, che è il mese di Sabat. Il figlio di Abubo li ricevette con inganno nella piccola fortezza chiamata Doc, che egli stesso aveva costruito. Fece loro un grande banchetto e intanto teneva nascosti alcuni uomini. Come Simone con i suoi figli si fu inebriato, Tolomeo si levò con i suoi uomini e, impugnate le armi, si gettarono su Simone nella sala del banchetto e uccisero lui, i suoi due figli e alcuni dei suoi servi. Egli così commise una grande perfidia e rese male per bene. Tolomeo poi scrisse un rapporto di queste cose e lo inviò al re affinché gli inviasse truppe in aiuto e gli affidasse la regione e le città. Mandò anche altri a Gezer per eliminare Giovanni e inviò lettere ai comandanti affinché si recassero da lui, poiché voleva dare loro argento, oro e regali. Altri ancora li inviò ad occupare Gerusalemme e il monte del Tempio. Un tale, tuttavia, corse avanti ad annunziare a Giovanni in Gezer che suo padre era perito insieme ai suoi fratelli e che ha inviato a uccidere anche te. Udendo ciò, Giovanni fu grandemente sconvolto. Prese gli uomini che erano venuti per farlo perire e li uccise. Sapeva, infatti, che cercavano di farlo perire. Quanto alle altre azioni di Giovanni, le sue guerre, gli atti di valore che egli compì, la costruzione delle mura che egli costruì e le gesta di lui, ecco, tali cose sono scritte nel libro dei giorni del suo sommo sacerdozio, dal momento in cui divenne sommo sacerdote dopo suo padre.